ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Non si riesce a capire esattamente quale reato avrebbero commesso gli imputati. Contesto storico, politico, nel quale l'accusa colloca l'evento trattativa è poco verosimile. Mi sembra veramente non condivisibile che ancora si ripeta che la trattativa fra lo Stato e i criminali possa essere in qualche modo giustificata, in qualunque modo. Lo Stato ha una sola scelta, quella di combattere il crimine, non di trattare col crimine. Trattativa, sì o no, in stato di necessità, può lo Stato fare patti con la mafia? E questo che è successo e poi è davvero un reato? In questa puntata di A Ciascuno il Suo entriamo nel buio più fitto della stagione delle stragi e nelle polemiche intorno ad uno dei più importanti palazzi di giustizia d'Italia e ad uno dei casi più controversi che ha lambito il colle, che spacca l'opinione pubblica e che ha lasciato una scia di tensione e divisioni come non si vedeva da anni. È infatti senza dubbio il processo più delicato in corso a Palermo, quello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, è senza dubbio uno dei dibattimenti più difficili degli ultimi tempi, quello che vede seduti sullo stesso banco degli imputati i boss più feroci di Cosa Nostra, responsabili delle stragi del 92, e accanto politici, ex ministri ed ex uomini dello Stato che in quella terribile stagione avrebbero stretto patti inconfessabili con la mafia. Ma anche se fosse così, sono stati davvero commessi dei reati? Ebbene, due tra i più autorevoli studiosi di mafia e di diritto pensano di no. E preoccupazioni e perplessità su questo processo le mette nero su bianco anche la stessa Direzione Nazionale Antimafia, l'ufficio centrale, cioè quello voluto da Giovanni Falcone per coordinare i lavori di tutte le DDA. Questo processo, insomma, è arrivato fino al colle più alto, che ha arroventato il dibattito politico e giudiziario come non mai, ha davvero ragion d'essere? O la Procura di Palermo ha sbagliato? Mentre le udienze vanno avanti nel palazzo, fuori nuove polemiche si arroventano. Prima con un saggio di due tra i più autorevoli e attenti studiosi di storia della mafia e di diritto, poi, come dicevamo, con la relazione della stessa Direzione Antimafia. Quella trattativa, se mai c'è stata, è davvero un reato, anche se il reato di trattativa, appunto, non esiste? Se lo chiedono Giovanni Fiandaca e Salvatore Lupo, giurista l'uno, storico l'altro, nel saggio La mafia non ha vinto. E per fortuna il reato di trattativa non esiste, commenta il professor Lupo. Non lo dico io, ma lo dice l'accusa stessa, che il reato di trattativa non esiste. Fiandaca, che di diritto penale ne capisce molto più di me, io non sono giurista, dice che l'ipotesi accusatoria è inverosimile. Io dico che il contesto storico, politico, nel quale l'accusa colloca l'evento trattativa è poco verosimile. Perché non c'è in quella fase uno Stato, lo Stato, perché è una fase di grande crisi politica. Ci sono sicuramente dei pezzi di apparati dello Stato che hanno fatto, che hanno aperto delle trattative con dei pezzi di mafia. Alla fine, dico io, sostanzialmente la mafia è uscita battuta da quella congiuntura. Non definitiva, perché queste cose non sono definitive mai. Però non mi sembra che la mafia sia uscita vincente. Ecco, professore, ma innanzitutto, quindi, secondo lei, quel processo non avrebbe ragion d'essere? Il processo può avere un senso se si scopre che durante queste trattative sono stati commessi dei reati. Devo dire che i precedenti tribunali, in particolare i due processi contro il generale Mori, che sono stati chiamati a pronunciarsi, hanno decretato che il reato non c'è. La tesi della Procura di Palermo è che invece, appunto, dei reati che non sono il reato di trattativa, ma che sono volta per volta il reato di falsa testimonianza nei confronti, ad esempio, di Mancino e di Mannino, oppure di altri reati nei confronti degli altri uomini dello Stato, sarebbero stati commessi. Ma mi interesserebbe capire la sua opinione se possono essere considerate legittimi dei contatti tra uomini dello Stato e uomini di mafia in delle circostanze particolari. particolari come potevano essere la stagione delle stragi del 92. Io lo potrei rispondere che da 150 anni gli uomini dello Stato hanno contatti con gli uomini della mafia e gli uomini degli apparati speciali in particolare. Lo stesso pentitismo è stato un fenomeno di rottura di un pezzo della mafia che è andata a incontrarsi con un pezzo dello Stato. In generale questi contatti, se segreti e nascosti, sono andati a vantaggio della mafia. In questo caso, se contatti ci sono stati, non sono andati a vantaggio della mafia, tant'è vero che tutti gli elementi contenuti nel famoso papello con le richieste di Rina allo Stato, con le richieste di Rina, nessuna di questi è stata realizzata. Beh, c'è il famoso 41 bis revocato ai... ma non è affatto stato revocato il 41 bis, tutti i capi mafia sono tutt'oggi al 41 bis. Ma fu quello che fu revocato da Conso. Fu revocato per alcuni dei detenuti perché era previsto che dovesse essere rinnovato a discrezione del Ministro della Giustizia. Non possono restare tutti in eterno al 41 bis. Però quindi sono episodi singoli che in qualche modo non vanno letti in un'unica lettura di uno Stato che decide di trattare con una mafia che in quel momento lo stava piegando. È questo in qualche modo, diciamo, il senso ultimo. La spiegazione del complotto è sempre la più facile. In realtà, specialmente in un momento drammatico e di grandissima confusione politico-istituzionale come nel 92-93, io escluderei che ci possa essere stata questa occulta regia. E poi dopo vorrei sapere qual è il risultato di questa occulta regia. Abbandoniamo la tesi che la mafia sia stata salvata, che non è. Dopo il tribunale faccia il suo lavoro e io sono sempre pronto a rispettare le sentenze dei tribunali. Il problema è che l'opinione pubblica è stata convinta che qualsiasi trattativa sia un reato e se anche un vice brigatiere dei carabinieri tratta con un mafioso, la colpa è del Presidente della Repubblica. Lei ha citato il Presidente della Repubblica e c'è chi dice che, diciamo, all'origine anche di questa vostra analisi ci sono tutte le polemiche innescate dal fatto che loro hanno intercettato anche il Presidente della Repubblica. È così? Ma io non lo conosco il Presidente della Repubblica e non sono iscritto al suo partito. Può darsi che sia così, nel senso che a me non piace vivere in un paese in cui le telefonate private del Presidente della Repubblica vengono intercettate dai magistrati che sanno benissimo e dicono che il Presidente della Repubblica non ha commesso nessun reato e non è minimamente implicato. In sostanza, in quel drammatico 92 lo Stato era davvero preda della mafia, che minacciava altri delitti eccellenti ed altre bombe dopo l'omicidio di Salvo Lima e dopo il tritolo di Capaci. E quindi, se pezzi dello Stato ebbero contatti coi boss, niente di strano. E poi, quello stato di necessità del paese lo giustificherebbe. Ma è davvero così? Queste sono opinioni autorevoli a cui hanno fatto seguito le preoccupazioni della più alta procura antimafia d'Italia sui problemi di natura giuridica e fattuale, come leggiamo dalla relazione annuale sul processo palermitano. Ma tutto questo è un'ingerenza a gamba tesa in un processo in corso, come lamenta il procuratore capo di Palermo Francesco Messineo? Le due cose sembrano oggettivamente coincidere verso il medesimo punto, ma sono assolutamente sicuro che non c'è nessun nesso intenzionale. Il punto su cui insistono in qualche modo, sia pur da prospettive, da osservazioni diverse, è lo stesso. Voi non li leggete mettendoli insieme come un clima generale nei confronti del processo che si sta celebrando a Palermo? Questa è una lettura che si può dare. Io analizzerei le due vicende separatamente, perché mentre la Direzione Nazionale Antimafia esprime soltanto dei dubbi di carattere giuridico, questo ci ha sorpreso negativamente, perché oggettivamente può essere letto anche come una indebita ingerenza in un procedimento in corso, al di là delle intenzioni di colui o di coloro che hanno espresso questi dubbi. Quindi, secondo lei, si tratta di una ingerenza in un processo aperto? Potrebbe essere vista come una indebita ingerenza, perché non dimentichiamoci che non siamo più nella fase delle indagini, ma che c'è un processo in corso di svolgimento e un ufficio del pubblico ministero sovraordinato come è la Procura Nazionale esprima dei dubbi sull'impianto giuridico, oggettivamente dico potrebbe apparire questo. La mia domanda iniziale era se in qualche modo le due cose messe insieme da parte vostra potessero essere lette come una sensazione di un clima un po' ostile nei confronti di questo processo. Certamente non sono degli incoraggiamenti. Noi naturalmente non ci facciamo, diciamo, impressionare da questo tipo di commenti o di situazioni, ma indubbiamente nel momento in cui stiamo sostenendo l'accusa in un processo che ha una certa rilevanza e che è un processo oggettivamente difficile, questo tipo di commenti o di sottolineature negative non rappresentano certo per noi un fatto positivo. Comunque non ci distolgono minimamente dal fare quello che stiamo facendo. Legittima o no la trattativa, giusto o no il processo più difficile del momento, quando si parla della Procura di Palermo tutto si infiamma subito. Ma anche loro possono essere criticati, obietta uno dei più alti studiosi di mafia, il professor Lupo. Ma queste polemiche e ancor di più la pubblica bocciatura da parte della Procura Nazionale Antimafia, che effetti hanno sul palazzo più blindato d'Italia, dove sono sempre pronti a volare corvi e fantasmi? A ciascuno il suo. E se fosse stato un errore? E se il processo che ha trascinato nelle polemiche anche il Quirinale non avesse avuto ragion giuridica di esistere? Un giudice dell'udienza preliminare, Pier Giorgio Morosini, in realtà ha ritenuto che ci fossero gli elementi perché gli uomini della mafia e quelli delle istituzioni fossero sullo stesso banco degli imputati e ha dato il via al più delicato dibattimento degli ultimi anni, quello sulla trattativa Stato-mafia. Eppure arriva dalla più alta procura antimafia, quella nazionale, presieduta da Franco Roberti, una preoccupazione, si legge proprio così, per l'impostazione dell'accusa palermitana che pone nuovi problemi di natura giuridica e fattuale al giudice. Una critica esplicita e dura, messa nero su bianco in un capitolo della relazione annuale firmata dal magistrato Maurizio De Lucia. Una critica che ha portato i PM di Palermo sulle barricate perché c'è il rischio, avverte il procuratore capo Francesco Messineo, di un'ingerenza su un processo aperto, con l'effetto pure di aumentare l'isolamento di PM come Nino Di Matteo, a cui la scorta è stata ulteriormente rafforzata dopo le minacce dal carcere di Totò Riina. Innanzitutto non ci sono aree di squisita discrezionalità politica che non possano essere apprezzate dal giudice penale. A me sembra veramente singolare che lo Stato, di fronte ad un attacco di violenza terroristica della mafia, invece di contrastare questa violenza terroristica, si preoccupi di scendere a patti. È un argomento questo assolutamente inaccettabile e mi piacerebbe sapere che cosa ne pensano le associazioni dei parenti delle vittime delle stragi. Ci sono state in passato le trattative, ad esempio quella dopo il rapimento Moro, ma come ricorda il professor Lupo, riprendendo atti dell'inchiesta, il reato di trattativa non esiste. Il fatto che in passato siano stati posti in essere comportamenti di questo genere non autorizza certo a ripeterli. Poi noi non stiamo processando a Palermo nessuno per il reato di trattativa. No, certo, ci sono dei reati specifici. Mi sembra veramente non condivisibile che ancora si ripeta che la trattativa fra lo Stato e i criminali possa essere in qualche modo giustificata, in qualunque modo. Lo Stato ha una sola scelta, quella di combattere il crimine, non di trattare col crimine. Le polemiche che ci sono state anche per tutta la vicenda delle intercettazioni del capo dello Stato in qualche modo c'entrano con la riapertura di questo dibattito e con le contestazioni al vostro processo? È evidente che tutto in questa vicenda del processo della trattativa è in qualche modo collegato e tutto quanto determina e ha determinato tensioni. Sotto questo profilo, se vogliamo, un nesso c'è. Insisto nel dire che il problema consiste in questa strana e singolare argomentazione secondo cui la la trattativa sarebbe stata un fatto positivo. Contraddittoriamente mi pare che si parli anche di una trattativa in stato di necessità. Ora, io non mi confronto col professor Fiandaca sul piano giuridico, però ricordo che lo stato di necessità è una circostanza che, se esiste, rende non punibile un reato, ma non è che lo fa venire meno. Procuratore, ma secondo lei queste polemiche e questi dibattiti intorno ad un processo così delicato come quello sulla trattativa in qualche modo hanno delle ricadute anche su di voi, sul clima, diciamo, che c'è a Palermo in procura? Non possono non avere ricadute. Come ma anche in termini di esposizione, diciamo, al rischio? Non c'è dubbio che additare dei magistrati come coloro che stanno facendo qualcosa di sbagliato in un ambiente come quello siciliano è una forma di delegittimazione e non credo che contribuisca alla sicurezza di questi magistrati. Oggettivamente il mio timore è che possano influire in qualche modo sui giudici che devono giudicare sul processo. E questo lo avvertite in qualche modo anche da parte della Direzione Nazionale Antimafia? Le argomentazioni della Direzione Nazionale Antimafia mi hanno sorpreso, sia perché la discussione relativa ad un processo in corso, processo non indagine in corso, non rientra strettamente fra i compiti della Direzione Nazionale Antimafia, sia perché criticare in questo modo pubblicamente l'operato di un ufficio del pubblico ministero indubbiamente è qualcosa che sorprende. Ne ha parlato con il procuratore Roberti oppure con lo stesso sostituto De Lucia? Con De Lucia no, ho parlato con il procuratore Roberti, che è stato cortesissimo e disponibilissimo e ha infatti rilasciato una dichiarazione che... In cui specifica che non c'è nessuna bocciatura. È una dichiarazione che ho apprezzato moltissimo e che indubbiamente riequilibra un po' la situazione, ma naturalmente non ha fatto venire meno la nostra sensazione di disagio per questa pubblica critica. Insomma, Palermo sembra un po' più lontana da Roma. Palermo è lontana da Roma, sono molte centinaia di chilometri, quindi questo non ci deve sorprendere. Dono parte dunque a una critica della Direzione Nazionale Antimafia e le contestazioni di due studiosi al processo sulla trattativa. Dall'altra la procura più avvelenata d'Italia e le polemiche che avverte il procuratore potrebbero esporre a rischi ancora maggiori gli stessi magistrati. È un ricatto? Possibile che si debba rinunciare alla critica? Si interroga lo storico Salvatore Lupo, autore insieme al professor Giovanni Fiandaca di un saggio sul labirinto della trattativa. Dal fatto di stare comunque in uno schieramento, per me è lo schieramento antimafia ed è uno schieramento politicamente di sinistra, non ne consegue che debba applaudire ogni qualvolta succedono dei fatti che hanno qualche tendenza degenerativa. Sembra che quasi quello che venga fatto a Palermo non possa essere mai contestato. A me piace vivere in un paese ordinato in cui il poliziotto fa il poliziotto, il ministro degli interni fa il ministro degli interni, il presidente della Repubblica fa il presidente della Repubblica e hanno il loro potere che non è contestabile ogni volta da altri poteri. Questo è il punto cruciale. Le cita ad un certo punto anche quelle accuse che per quanto riguarda la stagione delle stragi erano state tempo fa contestate e poi archiviate anche ad un politico siciliano vicino a Berlusconi come Marcello Dell'Utri, e lei scrive, e leggo testualmente: io continuo a non capire quale contributo Cosa Nostra potesse mai portare alla nuova politica berlusconiana con la sua strategia della tensione. Che vuol dire? Berlusconi ha vinto delle elezioni nel 94 mobilitando un grande flusso di opinione e tante lobby affaristiche, forse anche quelle mafiose. Ma non capisco bene le bombe a che cosa dovevano servire. Difatti non gli servivano per niente. Mi permetto di ricordare che il senatore Marcello Dell'Utri è stato condannato per associazione mafiosa, per concorso in associazione mafiosa, ma nella sentenza è scritto che queste sue relazioni non hanno niente a che vedere con la Costituzione di Forza Italia. Molti dei supporter della magistratura continuano a ignorare tutte le sentenze della magistratura giudicante. C'è una nebulosa, diciamo, intorno ad alcuni argomenti che hanno a che fare con quelle stagioni, per cui finisce tutto all'interno di un indistinto, come se ci fosse il grande complotto dietro. È questo quello che lei dice? È questo che dico, e certamente io non sono un sostenitore né del senatore Dell'Utri né tantomeno del suo capo, tutt'altro. Il mio problema è un problema di costruzione dell'opinione pubblica in questo paese, quindi Cioè per i danni che nell'opinione pubblica provoca e per quello che lascia un certo tipo, diciamo così, di convinzione errata. La procura faccia il suo lavoro e se è convinta che ci sono dei reati, faccia i processi e poi deciderà la magistratura giudicante se i reati ci sono o no. Tutta questa invece costruzione parapolitica, complottistica, demonologica che ci sta intorno, non ci fa bene. Una costruzione che secondo lei, ed è l'ultima domanda, è alimentata anche da frasi come quella che è il titolo del libro intervista dell'ex procuratore aggiunto Antonino Ingroia, "Io so ma non ho le prove", come era la famosa frase di Pasolini? Certo, perché se uno sa deve avere delle prove, se fa dei libri ha diritto di scrivere quello che vuole. Io ho il diritto di dire se le tesi mi convincono o no, però non vorrei che io non possa criticare, perché non posso criticare i magistrati, perché sennò li espongo a farsi assassinare dalla mafia, perché questo è un ricatto monavi inaccettabile, francamente. Questa polemica sul processo, sulla trattativa Stato-mafia, ha messo su opposti fronti anche il professore e l'allievo. Il professor Fiandaca è stato infatti il maestro di Antonio Ingroia, primo rappresentante dell'accusa nel dibattimento prima di lasciare la magistratura, che ora si dice amareggiato. Mi amareggia anche, mi sembra frutto di una lettura affrettata, se vogliamo. Nessuno è imputato per avere trattato con la mafia. Sono imputati innanzitutto i mafiosi che hanno minacciato lo Stato. Assieme ai mafiosi sono imputati quegli uomini dello Stato che nella impostazione accusatoria hanno aiutato di fatto i mafiosi a minacciare lo Stato e a ottenere per la mafia i favori che i mafiosi volevano. Aiutato nel sostanza vuol dire anche trattato. Altra questione è quella invece etica. Cioè la possibilità o meno che ci possano essere, diciamo, dei contatti e quindi delle possibilità di trattativa in momenti così drammatici. È una trattativa che nasce per difendere una casta di uomini politici, molti dei quali condannati a morte dalla mafia. Certo, lei fa riferimento a tutti i politici che erano stati appunto minacciati dai boss. La trattativa parte non per salvare lo Stato, ma per salvare una casta di uomini politici. Quegli uomini politici in effetti, per effetto della trattativa, sono stati salvati, ma sono state salvate le vite di quegli uomini politici e ne sono state sacrificate altre. Non si può più parlare di una trattativa fatta a fin di bene, ma potremmo dire a fin di casta. Dottor Ingroia, sicuramente in quel momento a rischio c'era anche la tenuta stessa delle istituzioni. Ecco, volevo chiederle che effetto fa venir contestata una pregiudiziale, atteggiamento criminalizzatore. Questa accusa non me la sento proprio per nulla. Secondo lei, ecco, nascono anche dalle polemiche che ci sono state intorno alle famose telefonate del Presidente della Repubblica? Sì, credo di sì. La magistratura che ha, tra virgolette, osato perfino intercettare il capo dello Stato viene considerata come una magistratura che non sa stare entro i limiti e quindi viene per questo, soprattutto per questo, fortemente criticata ed osteggiata. E voi che pensate del processo palermitano sulla trattativa Stato-mafia? Secondo voi andava fatto oppure è accettabile un negoziato con i boss? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, oppure sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!